cessate di uccidere i morti. Non gridate più, non gridate. Se li volete ancora udire, se sperate di non perire, hanno l'impercettibile sussurro. Non fanno più rumore. Del crescere dell'erba lieta, dove non passa l'uomo. Thank you.